GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Due trentenni goriziani morti nella notte in un incidente stradale in A4 all'altezza di Aiello, tre auto coinvolte, due i feriti. Rientro per i sanitari Novax, fra visite mediche e nuove mansioni, il reintegro non basterà a sanare gli organici. Migranti, arrivi record dalla rotta balcanica, ieri circa 200 ingressi a Trieste, saturo il sistema accoglienza. Urla, risse, spaccio e occupazioni abusive, sopralluogo di comune e forze dell'ordine nella periferia sud di Udine. Boom di richieste di passaporto in vista del Natale, ma i tempi per ottenere il documento sono lunghissimi. In regione ogni giorno una persona muore per cause correlate all'alcol, alti i costi sociali per l'abuso. Casalsa ricorda Pasolini a 47 anni dalla morte, alla tisana in scena, le storie dimenticate del Friuli. La Pallanuoto Trieste tenta l'impresa contro la Prorecco, campione d'Italia ed Europa, ma alla Bianchi finisce 8-10. 7:19 minuti di giovedì 3 novembre. Buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature a Trieste 15 gradi e mezzo, a Udine 14 gradi, a Pordenone e Gorizia 13 gradi e mezzo, a Tolmezzo 13 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 10 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 10 gradi, a Sappada 8, sul Piancavallo 7 gradi e 5 decimi, su Monte Zoncolano e Monte Lussari 5 gradi, a Grado e Lignano 16 gradi, temperatura del mare 21 gradi. E veniamo alle previsioni. Cielo in prevalenza nuvoloso, anche coperto su alta pianura e prealpi. A tratti saranno possibili piogge sparse, in genere deboli, moderate e più diffuse in serata. Sulla costa soffierà scirocco moderato in serata, mentre sui monti in quota dal pomeriggio soffierà vento da sud-ovest moderato. In apertura di giornale la cronaca è di due morti, un ferito, il bilancio del gravissimo incidente tra tre automobili che si è verificato ieri sera prima della mezzanotte lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste all'altezza di Aiello del Friuli. Le vittime sono due persone del Goriziano, Dario Valletti di 34 anni e Stefano Volante di 30 anni, che viaggiavano insieme su una delle vetture coinvolte nell'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Immediatamente interdetta la circolazione, che è rimasta bloccata fino alle 2 di notte. Nell'incidente è rimasta ferita anche una terza persona, le cui condizioni non sarebbero gravi, ed una quarta che è stata medicata sul posto. Diverse le ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti da Cervignano e Gorizia, oltre alla stradale e al personale di Autovie Venete. Tornano in servizio gli operatori sanitari e i medici non vaccinati contro il Covid, un reintegro che però non è immediato, né, avvertono i sindacati, risolutivo delle carenze degli organici. I non vaccinati della sanità regionale torneranno in attività nei prossimi giorni, ma la misura, voluta dal governo, non risolverà i problemi di organico. Rientreranno meno di 250 persone, inclusi dirigenti amministrativi, nelle tre aziende sanitarie: 48 nella Destra Tagliamento, 97 in quella Giuliano Isontina, 90 a Udine. Nell'azienda sanitaria Friuli Centrale, 35 di questi 90 sono infermieri, ma per coprire le uscite tra pensionamenti e licenziamenti nei soli primi 6 mesi del 2022, calcola la CISL, ne servirebbero 3 volte tanti. La speranza è che comunque il loro rientro possa alleggerire il sovraccarico di lavoro e stress. Massimo Vidotto, della CISL FP di Udine. Queste persone hanno già pagato un loro prezzo perché hanno rimesso lo stipendio, è stata una scelta che è costata a loro. Questo paese su questo argomento è stato fin troppo divisivo. Quello che serve ora non serve certo alimentare polemiche, ma serve, diciamo, collaborazione. Anche le più grosse case di riposo hanno uno, massimo due sospesi per struttura. Alcuni di questi non rientreranno, ci dicono. Nel frattempo si sono già trovati altre occupazioni. In queste ore gli ordini professionali stanno comunicando via PEC la fine delle sospensioni dagli albi. Le aziende sanitarie invitano i dipendenti a raccordarsi con i rispettivi responsabili per le determinazioni organizzative. Si cerca, pensano i sindacati, di farli rientrare nella vecchia mansione, scongiurando sul nascere, ove possibile, eventuali contenziosi. Stefano Giglio, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Udine. In questo momento a noi non è noto quali siano le strategie che ogni datore di lavoro e ogni ambito lavorativo metterà in atto proprio per continuare a tutelare la salute dei pazienti o comunque dei cittadini che accedono a quel tipo di struttura. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un'impennata di ingressi di migranti dalla rotta balcanica. Nelle ultime 24 ore circa 200 arrivi ieri tra San Dorligo e Muggia. Il trend non si ferma, anzi, proseguono i rintracci record di migranti alle porte di Trieste. Nella mattinata, nella solita zona d'ingresso tra San Dorligo della Valle, Bagnoli e Muggia, sono ben 144 le persone ritrovate. Si tratta quasi esclusivamente di maschi adulti, pakistani, afghani e curdi, pochi questa volta i minori. Lavoro extra quindi per la polizia di frontiera, la questura e la prefettura, anche perché nel corso della giornata un'ulteriore cinquantina si è presentata spontaneamente negli uffici, rallentando ulteriormente le procedure di riconoscimento. Per la mole di persone rintracciate, quasi 200, gli agenti e i funzionari hanno dovuto indirizzare i migranti a Fernetti e anche agli uffici della Polizia di Frontiera Marittima per le operazioni di fotosegnalazioni e delle domande di asilo. L'impennata di arrivi ha messo in difficoltà anche il sistema di accoglienza. La prefettura aveva appena finito di trasferire 150 migranti in Sardegna e si è trovata di nuovo con strutture sature e sotto pressione. Non sono mai stati registrati numeri così elevati, ci ha spiegato il prefetto di Trieste Annunziato Verdè. Stiamo sollecitando nuovi trasferimenti al Ministero dell'Interno e confidiamo nella collaborazione con il Comune per trovare nuovi posti dove garantire almeno un letto e un pasto caldo. La rete CAS attualmente conta di 1.400 posti in provincia di Trieste, 281 di quali occupati da cittadini ucraini. Da fonti di polizia c'è preoccupazione anche per la pressione che stanno ricevendo i paesi vicini. La Slovenia ferma e identifica oltre 700 migranti a settimana, con punte di 300 al giorno, 15.590 da inizio 2022 fino a fine settembre, più 114% rispetto all'anno precedente. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Degrado ed edifici occupati a Udine, nella zona ferroviaria, tra via Pradamano e via Butrio. Ieri il sopralluogo. Urla, risse continue, spaccio di sostanze stupefacenti, gente ubriaca, sono esasperati i residenti e i lavoratori nell'area ferroviaria tra via Pradamano e via Butrio a Udine. Sono infatti numerosi gli accessi abusivi alle strutture e dalle aree dismesse delle ferrovie dello Stato. Una lavoratrice. Comunque non ti senti al sicuro, perché spuntano magari soprattutto nei turni di notte, sicuramente dei colleghi uomini, sono più alti, più corpulenti, un po' di timore glielo fanno, vedendo una ragazza io non credo che abbiano questa altrettanto timore o si facciano più di tanto problemi alla fine, quindi sì, sei sempre con gli occhi aperti e comunque di notte non li vedi fino all'ultimo. Spesso li si vede un po' alterati, si vede che sono visivamente o ubriachi o alcolizzati o, sì, o drogati o quant'altro. Si sentono spesso e volentieri urla tutte le ore della notte, anche quando siamo proprio noi lì a fianco con la locomotiva e non si fanno neanche problemi della nostra esistenza, della nostra presenza lì vicino. Nelle prossime ore, dopo il sopralluogo del Comune, della Polizia Ferroviaria e locale con i tecnici di Fer Servizi, il Comune e i dirigenti della Polizia Ferroviaria stileranno una serie di interventi per la messa in sicurezza delle strutture dismesse ormai da anni. Malgrado siano numerose le operazioni delle forze dell'ordine con il fermo di persone che occupano abusivamente gli spazi, nel giro di pochi giorni la situazione si ripresenta. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, cordoglio e incredulità tra Veneto e Friuli per la morte della giovane investita e uccisa da un'auto nel Trevigiano dalla TGR del Veneto il servizio di Lucia Zorzi. Il padre sì, lo conoscevo il padre. Ieri erano qua tutti fuori, tutta la famiglia era fuori. La morte della 22enne Miriam Ciobanu, investita la notte dell'1 novembre sulla provinciale 20 a Paderno, frazione di Pieve del Grappa, ha lasciato nella disperazione molte vite. Il padre Ion non si perdona di non aver sentito il telefono quella notte. Lo aveva chiamato Miriam dopo un litigio col giovane che frequentava da qualche settimana, Tommaso. Non si perdona Tommaso per non essere riuscito a trattenerla quella notte. Vive una grande disperazione anche Alessandro Giovanardi, 23 anni, arrestato per omicidio stradale, positività all'alcol e alla droga. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale sotto shock subito dopo lo schianto. Una giovane vita piena di progetti è stata cancellata. Miriam è una brava ragazza, era mia cliente e quindi la vedevo quasi tutti i giorni. Una disgrazia. Sa che si voleva poi iscrivere di nuovo, tornare all'università. Cosa le racconta? I viaggi, i libri, e voleva iniziare la scuola un'altra volta. La mamma Adriana, che lavora in un locale a Fietta con il suo nuovo compagno, ha detto che riuscirà a perdonare l'investitore, che dovrà rispondere al proprio rimorso. A Onedifonte, dove Miriam viveva con il padre e la sorella diciottenne Evelyn, non risponde nessuno al campanello. Il padre e la ragazza sono andati all'obitorio a Montebelluna per il riconoscimento della salma, che resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sarà sottoposto a esami tossicologici, oltre che a quelli autoptici, il cadavere della donna trovato in un salone di acconciature di Trieste, in via Foscolo, di proprietà del compagno, un cittadino pakistano. Lo ha riferito il procuratore capo Antonio De Nicolo, precisando che entrambe le serie di esami verranno eseguite nei prossimi giorni. Per De Nicolo ogni valutazione sulle cause della morte è prematura e infatti si indaga esplorando qualunque pista, da quella dell'uso eccessivo di sostanze stupefacenti fino al suicidio, fino anche al decesso per cause naturali, anche se questa appare un'ipotesi più remota, visto che la vittima aveva solo 33 anni. A condurre le indagini la polizia, che raccoglierà le testimonianze di conoscenze e amicizie della vittima. Ora voltiamo pagina. Trieste oggi si celebra il patrono San Giusto. Alle 10 in cattedrale il solenne pontificale presieduto dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi. Sempre oggi le cerimonie commemorative del 104esimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, lo sbarco dei bersaglieri alle 10 in piazza Unità, l'alza bandiera. Nel pomeriggio poi alle 15.30 a San Giusto il ritrovo dei partecipanti alla staffetta, che arriverà alle 16.30 in piazza Unità, alla Scala La Reale, alle 17 deposizione di corone con gli onori ai caduti. E oggi a Trieste i musei storici, artistici e i musei scientifici saranno aperti con orario festivo. Nella giornata di oggi l'ingresso sarà gratuito anche nei musei normalmente a pagamento. Nella chiesa del cimitero di San Vito a Udine l'appuntamento per ricordare i defunti. Santa Messa alle ore 10.30 in onore delle vittime delle foibe e dei defunti dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Seguirà una breve cerimonia al monumento ai caduti giuliani e dalmati all'ingresso principale dello stesso cimitero monumentale. In occasione della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, lo storico e studioso Marco Pascoli terrà a Fiume Veneto una conferenza dal titolo In casa del nemico, lo spionaggio sul teatro italo-austriaco della Grande Guerra alle 20.30. Nell'aula magna della Casa dello Studente alle 9 l'appuntamento per le scuole. Attese anche di mesi per ottenere il passaporto non aiutano chi vuole partire per un viaggio all'estero, una situazione che mette in allarme il settore delle agenzie di viaggio. Preoccupati per il destino delle prenotazioni della stagione invernale, anche gli agenti di viaggio e operatori turistici della regione segnalano tempi lunghi nel rilascio dei nuovi passaporti. Il presidente regionale della federazione, agenti di viaggio Giampiero Campaiola, spiega che le difficoltà si sono riacutizzate dalla fine delle restrizioni anti-Covid a inizio estate, con la ripresa dei viaggi e l'aumento di domande di nuovi passaporti anche dovuto alla Brexit, e che adesso stanno peggiorando in vista delle vacanze natalizie, mettendo a rischio la promettente risalita di un settore già colpito duramente da 2 anni di pandemia. Le questure stanno lavorando a pieno regime con tanto di open day dedicati al rilascio dei documenti, ma le lungaggini restano. Gli uffici, da quanto si apprende, procedono a velocità diverse, da 1 a 2 mesi a Trieste e Gorizia, a tempi più lunghi a Udine e Pordenone. Per quanto riguarda Udine, a cui facciamo riferimento, la prima data disponibile è marzo 2023, lo stesso dicasi per Pordenone. Siamo molto preoccupati, i nostri clienti vogliono partire anche per le vacanze di Natale e Capodanno e non possono farlo perché non riescono ad avere il documento. L'unica risposta che abbiamo ottenuto è che a causa dell'enorme richiesta post-pandemica non riescono a sostenere i ritmi di nuove missioni. È un disagio che sta pesando sulle prenotazioni più richieste, quelle a lungo raggio come Stati Uniti, Medio Oriente e Oriente, fanno sapere sempre gli operatori turistici, ricordando che si può comunque tentare di ottenere la priorità rispetto alla fila, ma deve sussistere un comprovato motivo d'urgenza. A livello nazionale, intanto, l'associazione di categoria FIAVET e Federazione Turismo Organizzato hanno rilanciato la richiesta di soluzioni urgenti per velocizzare le pratiche. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali sul disegno di legge sul commercio e sullo schema di regolamento sui contributi agli enti locali per la riduzione o l'esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, per l'ammodernamento e per migliorare i livelli dell'offerta turistica per i proprietari che mantengano gli immobili nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a 8 anni. I fondi saranno erogati nella misura massima del 50% dell'ammontare della riduzione delle entrate sostenute e comunque fino a un massimo di 50.000 euro per anno. La linea contributiva verrà attivata nel 2023. E il costo dell'energia mette in difficoltà i comuni, facendo schizzare le bollette per l'illuminazione pubblica a Butrio, dove solo nell'ultimo mese l'amministrazione si è vista triplicare la spesa, passata da 4 a 12 mila euro. Da oggi, e sarà una sperimentazione di 3 mesi, l'illuminazione pubblica sarà spenta da 12:30 alle 5:30 del mattino. Fanno eccezione alcuni punti luce posizionati lungo le strade regionali e provinciali che attraversano il territorio comunale. Il comune di Butrio vede per quest'anno una maggiore spesa di 100.000 euro, tanto che l'amministrazione avverte che sarà molto difficile, come per tutti i comuni, poter chiudere a pareggio il bilancio di previsione 2023. Confindustria Alto Adriatico interviene sul contestato ampliamento dello stabilimento Kronospan dopo la conferenza dei servizi che ha approvato le autorizzazioni per Silva, che tratterà i rifiuti legnosi dell'azienda produttrice di pannelli. Soddisfatti nel veder prevalere i giudizi tecnico-scientifici su un'azienda tra le più green del nostro territorio, che qualcuno voleva far apparire come una nuova Chernobyl. La sintesi di quanto detto dal presidente Michelangelo Agrusti, che ha ricordato come l'azienda di San Vito abbia previsto oltre 200 nuovi posti di lavoro nella zona industriale di Ponte Rosso e circa 210 milioni di euro di investimento con risorse esclusivamente proprie. Parliamo ora di salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si ripromette di ridurre del 10% in pochi anni il consumo di alcol nel mondo, e c'è chi protesta. In regione più di una persona al giorno muore per cause correlate all'alcol. Sono invece circa 7 al giorno quelle per cause correlate al fumo. Grandi numeri che dimostrano quanto bere e fumare non siano pratiche salutistiche. Ha ugualmente creato sensazione anche in regione la recente campagna anti-alcol dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che come priorità ha la riduzione del 10% del consumo pro capite entro il 2025. Con quali azioni? Aumento della tassazione, divieto di pubblicità e marketing, obbligo in etichetta di messaggi salutistici stile pacchetto di sigarette. Non tutti l'hanno presa bene, soprattutto per lo stesso trattamento riservato al fumo. Rodolfo Rizzi, già presidente regionale di Assoenologi e direttore di una delle più importanti cantine produttori della regione. Teniamo conto che il comparto del vino friulano è un comparto molto importante, che oltre a sostenere l'economia vitivinicola sostiene molto il turismo e tutte le comunicazioni. Quindi quello che oggi il mondo del vino si sta auspicando è che a livello governativo si riesca ad intervenire e togliere queste disposizioni che sarebbero deleterie per tutto il comparto. Dal versante sanitario parla lo psichiatra Francesco Piani, consulente del Centro Solidarietà Giovani di Udine. Tutte le misure che tendono a ridurre i consumi sono misure che tendono a migliorare la salute del cittadino e quindi di ridurre l'impatto dei pericoli correlati anche sugli ospedali, sulla sanità, ma direi anche sul sociale, perché poi i danni sanitari sono una parte del danno assolutamente importante, ma poi c'è tutta la componente che riguarda le famiglie, la violenza domestica, gli incidenti stradali. Quello che l'OMS anche probabilmente non ha detto in questa occasione è che si sostiene che il costo totale che paghiamo per i problemi correlati in termini di salute e di socialità, di famiglia e via dicendo, supera i benefici economici di tutto il comparto dell'alcol. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Proseguite per tutta la giornata di ieri le operazioni di messa in sicurezza dello specchio d'acqua lungo il porto canale a San Giorgio di Nogaro dopo lo sversamento di materiale oleoso inquinante nella zona di Porto Margaret. I volontari di Protezione Civile insieme alla Capitaneria di Porto hanno rimosso parte delle panne collocate per assorbire la sostanza oleosa per il successivo smaltimento. Ieri sono stati posizionati altri 70 metri di panne e una ditta incaricata delegata ha provveduto all'aspirazione della sostanza inquinante. Sul posto anche i tecnici dell'ARPA nei prossimi giorni proseguiranno le attività di monitoraggio. La cultura inaugura a Trieste la scultura nelle raccolte del Museo Revoltella da Canova al XXI secolo, una grande esposizione per celebrare i 150 anni del museo fondato nel 1872 per volontà del barone Pasquale Revoltella, che dispose di lasciare alla città il suo palazzo e la sua vasta collezione. Il Museo Revoltella è la più antica galleria pubblica in Italia dedicata all'arte moderna. La collezione scultorea custodita dal museo conta oltre 200 pezzi. In mostra ci saranno circa 60 opere rappresentative degli sviluppi artistici del territorio italiano ed europeo dal primo 800 al XXI secolo, alcune delle quali inedite. Opening Day, oggi festa del Santo Patrono, a partire dalle 13 e fino alle 21, mostra e museo potranno essere visitati gratuitamente. La mostra resterà aperta fino al 25 aprile del prossimo anno, tutti i giorni, escluso il martedì. Il biglietto è compreso in quello d'ingresso al museo. Il 2 novembre di 47 anni fa moriva Pierpaolo Pasolini. Il ricordo ieri a Casarsa. Abat Rosari, pai pras al siscunis, ioi suoi muart al chant dali champanis. Sui versi di Ciandali Champanis, Canto delle Campane, poesia in friulano tratta dalla Meglio Gioventù, Casarsa ricorda il suo Pierpaolo Pasolini nel 47esimo anniversario della morte al cimitero dove l'intellettuale è sepolto accanto alla madre Susanna. Flavia Leonarduzzi, presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini. È una cerimonia semplice ma ricca di significato che l'amministrazione comunale e il Centro Studi Pierpaolo Pasolini desiderano in modo proprio leggero offrire come omaggio, nel significato che vogliamo dare noi però di omaggio a Pierpaolo Pasolini, e quindi continuare a far conoscere il suo pensiero attraverso il suo lavoro, la sua opera, in modo critico ma senz'altro di assoluta attualità, ed è un'occasione quindi per ricordare quello che lui è stato, ma soprattutto la sua lezione e la sua eredità. Sulla sua tomba fiori, ricordi, poesie da parte di visitatori che arrivano qui da tutto il mondo. La cerimonia accade quest'anno nel centenario della nascita del grande poeta. Il sindaco della città di Casarsa della Delizia, Claudio Colussi. Questo anno sono fatte moltissime manifestazioni, moltissime iniziative a dimostrazione proprio dell'importanza che ha avuto Pasolini, perché le manifestazioni sono state da Casarsa a New York e in tutto il mondo, questo a significare proprio dell'importanza della sua figura. Prossimo appuntamento, il convegno internazionale di studi Pasolini 100, ieri, oggi, domani, in programma a Casarsa il 4 e 5 novembre. Casarsa, Rantascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo a Pordenone arriva al Teatro Nuovo Giovanni da Udine alle 20:45, Se vivrò dovrò pure tornare, produzione del Teatro Stabile Furlan insieme alla storica Società Operaia di Pordenone, uno spettacolo in lingua italiana e friulana che mette in scena l'idea che aveva del Friuli il poeta di Casarsa. Sarà preceduto da una tavola rotonda alle 17:30 sul tema dell'autonomismo molto personale ed originale dello scrittore. Storie di vite straordinarie che sono cadute nell'oblio. Alla chiesa di Sant'Antonio, alla Tisana, alle 20:45, il reading Il Friuli indimenticabile che abbiamo dimenticato, con Paolo Patui, Monica Mosolo ed Elvis Fior. Un viaggio alla riscoperta delle grandi imprese di donne e uomini della nostra regione, persone originali e brillanti di cui non si parla più e di cui invece si dovrebbe parlare. Per farlo abbiamo sentito proprio Paolo Patui, tra le voci dello spettacolo. L'idea nasce da una convinzione mia personale, immagino condivisa: non c'è nessuna vita che meriti di essere dimenticata. La più banale, la più ovvia, ma evidentemente a maggior ragione pretende chi deve essere ricordata la vita di chi ha usato coraggio e generosità per aprire strade nuove, sondare nuovi percorsi. In questo reading racconteremo alcune delle tante storie racchiuse nell'alfabeto friulano delle emozioni, che sono storie di personaggi friulani che hanno veramente veramente aperto dei mondi. Da Luigi Rapuzzi, il primo editore di romanzi di fantascienza in tutta Italia, a Luigi Peresson, che è la persona che ha portato, per esempio, in Italia il training autogeno, lo ha introdotto nel mondo sportivo prima, nella psicoterapia quotidiana poi, a altri personaggi che hanno veramente sondato strade nuovissime, che hanno combattuto, uomini e donne, molte donne hanno combattuto nella guerra partigiana, oppure hanno in qualche modo anche provato a sondare nuovi percorsi, dando alle donne friulane una dignità lavoratrice, addirittura combattendo contro le prime condanne di pena di morte inflitte alle donne negli Stati Uniti d'America, come Cora Slocomb. Ecco, sono personaggi straordinari che hanno rischiato in prima persona, che hanno dato un contributo a una comunità, a una società, a un senso civile e che sono stati rimossi perché il tempo lima la memoria, perché noi siamo persone facili alla dimenticanza. Questo reading vuole in qualche modo ridare loro un segno, un posto nella storia e vuole ammonire tutti quanti che la memoria è l'unica cosa che ci rende immortali e che dà ragione del nostro spendere la vita su questa terra in un certo modo. Lo sport ora, la Pallanuoto Trieste spaventa la Prorecco nel posticipo della seconda giornata di andata del campionato di serie A1 maschile. La squadra di Bettini si è arresa solo di misura, sull'8-10 ai campioni d'Italia ed Europa in carica. È stata battaglia la Bruno Bianchi davanti a 700 spettatori. Soddisfatto l'allenatore, pur costretto a rinunciare all'infortunato Bego, sostituito da Jankovic. Gara equilibrata fino al terzo periodo, quando la Prorecco è sembrata in grado di prendere il controllo, ma una fiammata della Pallanuoto Trieste ha rimesso tutto in discussione con Petronio che ha buttato dentro il rigore del -1 sul 7-8 ad una manciata di secondi dalla fine del tempo. Nel quarto periodo è però emersa un po' di stanchezza e Recco è scappato di nuovo. Eccoci alla rassegna stampa, cominciamo con il piccolo di Trieste, che dedica l'apertura ancora all'avvertenza Varzila. Varzila individua tre gruppi per l'acquisizione. Il consulente aziendale Piero Fossati, si legge nell'articolo all'interno, avrebbe individuato tre soggetti pronti ad avviare una stima del valore degli impianti ed eventualmente confermare presentazione di un piano industriale. L'identità di questi tre soggetti è ancora top secret, si sa, continua l'articolo, che sono state scartate alcune proposte legate alla logistica, considerate non adeguate a riassorbire i 450 dipendenti a rischio. L'attenzione è allora concentrata su società italiane ed estere nel campo della meccanica, anche se non risulta il coinvolgimento di produttori di motori navali, dal momento che Varzila ha chiesto di non avere concorrenti. La fotonotizia, sempre in prima pagina del piccolo, è per il summit sui Balcani che inizia oggi a Berlino. La Serbia, dice Scholz, il cancelliere tedesco, deve decidere se vuole stare con l'Europa o guardare alla Russia. Mentre in mezzo c'è spazio per la cronaca, sempre in prima pagina, con il richiamo all'intervista di Khan Sadiq, il fidanzato della ragazza trovata morta nel bagno del Salone di Bellezza a Trieste, ma si parla anche di migranti e dei nomi che sono in pista per sostituire Sandra Savino, ora sottosegretario. In lizza ci sono Brandi e De Santis. Mutui più cari di 100 euro, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine, in cui si legge che frena la richiesta di prestiti. Nella fotonotizia un'immagine di Miriam Ciobanu, la giovane tolmezzina residente in Veneto, travolta e uccisa da un'auto. La lite, la fuga a piedi, le ricerche, ecco che cosa è successo. Di spalla la cronaca, bivacchi negli edifici abbandonati di Udine, ispezione in via Butrio, poi lo scontro di ieri a Pavia di Udine, gravissimo, un motociclista di Manzano e la scomparsa dell'ex titolare del nuovo Doge di Passariano, Gianfranco Tonizzo. Ad aprire la cronaca cittadina è però la corsa alla poltrona di sindaco di Udine. Fontanini torna sui suoi passi: se si votasse oggi mi ricandiderei. In basso la testimonianza sulla strage di Halloween a Seul, nelle parole di un giovane friulano che vive in Corea. Sul Gazzettino, dipendenti pubblici liberi 2000 posti, sopra raffica di bocciature, pannelli solari vietati a tutti, in studi e negozi del centro inutile presentare la domanda, si legge nella fotonotizia. La vitellina nata con sei zampe in Friuli, gara di solidarietà per operarle in Abruzzo, e sotto il calcio con il dilemma di Sottil tra Beto e Success e il basket pienone atteso per Apu Fortitudo Bologna. Sul piccolo dell'edizione di Gorizia e Monfalcone invece l'apertura è per la nuova fermata di Italo all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, di cui abbiamo parlato anche nel notiziario di ieri. In arrivo si legge anche 5,2 milioni per la ciclabile nel tracciato della ex ferrovia che porta all'aeroporto. Subito sotto si parla di migranti, il CARA esaurito, spuntano le tende fuori appunto dal CARA di Gradisca di Sonzo, dove in 75 chiedono un posto e sono accampati. A fondo pagina si legge che sono più di 600 a Monfalcone gli iscritti al corso d'ascia 4.0 organizzato grazie al programma Frame Sport del bando UE. Sono 614 per la precisione tra italiani e croati e 68 gli stranieri da tutto il mondo. Terminiamo con il Gazzettino di Pordenone, che ha le stesse aperture dell'edizione di Udine. Nella fotonotizia invece ubriaca a 13 anni, triste normalità, dice il primario della pediatria, che conferma numerosi casi di abuso tra giovanissimi. In taglio basso il calcio, il Pordenone, ramarri favoriti con il Lecco, a Sacile Bottecchia, mi candido a sindaco. Sul Messaggero Veneto cambia la colonna di cronaca, conferenza dei servizi, sia l'ampliamento del sito Cronospan e ancora oltre il 40% in più di sanzioni per i rifiuti abbandonati. Poi una truffa agli anziani a Sacile, le dicono di mettere i soldi in frigo, spariti 1.500 euro. Anche qui ragazza di 13 anni in coma etilico cade, sbatte la testa, è successo a Maniago. In taglio alto una maxi fattura anche alla fiera per l'energia con il fotovoltaico. E ora proseguiamo con alcuni appuntamenti con gli spettacoli. Secondo concerto in cartellone per la 31esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone per la direzione artistica dei maestri Franco Calabretto ed Eddie De Nadai. Appuntamento questa sera nella chiesa concattedrale di San Marco alle 20.45 e domani a Udine con l'orchestra giovanile, i filarmonici friulani, insieme al fisarmonicista Francesco Gesualdi, al violoncello di Giovanni Ricciardi. Dirige il maestro Venier, programma di respiro europeo a partire dalle Siebenwort di Sofia Gubaidulina, che si ispira ai testi evangelici della Passione, il Cantus di Arvo Pärt e il quartetto numero 8 di Shostakovich, dedicato alle vittime di tutti i totalitarismi. L'uccello azzurro del drammaturgo belga Maurice Maeterlinck, con gli allievi attori della Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, sarà al Palamostre di Udine questa sera e domani alle 20.45, il nuovo spettacolo che sancisce il debutto dell'Accademia. Al Teatro dei Fabbri di Trieste, il signor Dopodomani, l'indicibile sproloquio di un condannato a vivere, monologo scritto dal fumettista Domenico Loddo e diretto da Roberto Zorn. Bonaventura per la rassegna di teatro contemporaneo della Contrada alle 20.30. E nuovo appuntamento a Pordenone alle 18.30 al primo piano dei foyer del teatro. La consulente di prosa Claudia Canella parlerà dei protagonisti della scena, della programmazione autunnale, in particolare degli spettacoli I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni con la regia di Walter Malosti e di Edipo Re, una favola nera del Teatro dell'Elfo, fino a parlare di Dentro, una storia vera, se volete, l'intenso testo di Giuliana Musso. Torna Cinema Zero e nelle sale di tutta la regione Tango con Putin, distribuito da OpenDVB con il Pordenone Pordenone Docs Fest. Il documentario, presentato in anteprima al Festival di Pordenone, racconta la storia di Dozd TV, il canale della pioggia, per molto tempo l'unica emittente libera nella Russia di Putin. La direttrice Natalia Sindeyeva, protagonista del film, è stata dichiarata agente straniero da Mosca. E tornano le serate culturali CAI di Pordenone, il ciclo con tre incontri in programma comincia questa sera e i due prossimi giovedì. Ha per titolo Un viaggio dalle Alpi all'Everest. Ospite della prima serata Andrea Lanfri, alpinista e atleta paralimpico, alle 21 nella Sala Grande di Cinema Zero. Regolarmente aperto anche nel giorno di San Giusto l'immaginario scientifico di Trieste, il Museo della Scienza Interattivo Sperimentale al Magazzino 26, sarà aperto dalle 10 alle 18 da pochi giorni. Ricordiamo, il museo ha aperto il secondo piano raddoppiando spazi e exhibit interattivi. Da oggi a domenica Trieste ritorna Cioccolatiamo in piazza Sant'Antonio, artisti in vetrina con i maestri cioccolatieri di Perugia e la prima fabbrica culturale del cioccolato itinerante in Europa. A disposizione per visite guidate gratuite delle scuole di Trieste e provincia. Tra gli appuntamenti proposti anche il laboratorio per bambini. E il Comune di Trieste ha avviato la stabilizzazione presso i titoli per la copertura di 14 posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore dei servizi ausiliari dei nidi e delle scuole dell'infanzia part-time, 18 ore riservata ai dipendenti a tempo determinato. Domande solo in via telematica entro il 2 dicembre. Moduli sul sito del Comune. E dopo 2 anni di chiusura forzata per la pandemia, ritorna per la 57ª volta a Ronchi dei Legionari la mostra ornitologica. Sarà la scuola primaria Vittorino da Feltre a ospitare la manifestazione da oggi al 6 novembre. Si prevedono almeno 1 migliaio di esemplari in gara e appassionati provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Si partirà oggi con l'ingabbio e domani tutti gli uccelli saranno valutati da giudici della federazione. Sabato 5 con ingresso libero, dalle 9 ci sarà l'invasione degli appassionati. Ora i programmi. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vuofevelindi, che parlerà della SPES, la scuola di politica dell'arcidiocesi di Udine, alle 11:19, anziani anzino, alle 11:55 né stato né mercato. In regia Bruno Montevecchi e Riccardo Stoici, in redazione Cristina Polselli, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.